le code di salmone, mentre invece le trance sono, quelli costano la metà, circa 8,50, una cosa del genere. Ma di quelli non mi piacciono perché ci sono le spine. Invece nelle cose sono già spinate, tranquille, poi sono più buoni. Che sai che farò? Voglio a Manzano, a Rubolga, che Manzano, a Rubolto, perché lì fanno, quando arrivano i pescherici, comprano direttamente dai pescherici, si mettono e vendono lì. No, ma non ne fanno più perché ero sceso io, Tore. Il pescato è tutto venduto lì a adesso non mi ricordo il nome, a quel grossista che c'è lì a Porto Torre per andare verso la stazione, che c'è il deposito. Non se ne danno. E magari trovi qualcuno così, qualche pescatore che non è convenzionato col grossista, e può darsi che te lo dia qualche chilo di pesce. Bisogna conoscerle però. Quindi hai ragione, di solito sono convenzionati con i grossisti, no, tutto quello che pescano praticamente pure lo danno al grossista. Però non è escluso che qualche pescatore magari se ne venda qualche chiletto così a qualche amico, insomma, qualche conoscente, eccetera. Avanti, Tore. Infatti, non andare dove ci sono i pescherecci grossi, ma quelle barche piccoline, quelli se li vendono all'ingrosso, no all'ingrosso, se li vendono al dettaglio, se li vendono. Io il giorno che ho chiesto, mi hanno detto tutti gli altri che era già venduto a quel suo grossista, ma ha detto se lo vuoi vai a Ghidda, non me ne ha dato nessuno la volta, e ho chiesto a tutti quelli che erano rientrati, c'ero da presto lì aspettando, perché tanti anni fa lo prendevo lì al porto a Torres o se no a Castelsardo e me lo davano, invece adesso non mi danno nemmeno. Lo so, Graziano, lo so che è così, però ad esempio io anni fa un amico a me mi diceva vieni la domenica a casa che ti do un po' di pesce, perché io la domenica, lui, premesso che lui lavorava a bordo di una imbarcazione, di un grosso peschereccio, però la domenica andava in mare con la sua barchettina e si faceva la pescata per sé, per casa sua. Però siccome la pescata era sempre abbondante, Eme mi diceva vieni che ti do qualcosa. Io ci sono andato due volte e poi non ci sono andato più perché non andava bene. Va bene, l'avevo portato anch'io qualche regaluccio per ricambiare, però poi basta, no? Non è che potevo andare tutte le domeniche lì a Porto Torres, a casa sua addirittura, per prendere il pesce che lui mi avrebbe dato. No, no, oh, non va bene così. Vai, Tore. Infatti così è. Vabbè, se no vendendo vi varo. Andavè così. Signor Bacchi, ancora ci sei? Io sono sempre qua, io già. Io sono sempre qua nascosto nell'angolino. La pitina. Non dà zibuto a nessuno. Prima, tanti anni fa, andava a Porto Torres, si prendeva la sua, a Ponte Tassali. Aveva se una ciappa più. È permesso? Avanti! Buonasera! Buonasera Giulio, buonasera Tore, Bacchisio e Graziano, dai! Riprendi giù! Ok, ciao Giomari! Buona serata anche a te! Sì, beh certo, stiamo parlando un po' di pesce, non so se stai ascoltando da un po' o se sei appena entrato. Sì, ma è così, io mi ricordo comunque, e questa è una cosa di parecchi anni fa. Una volta io avevo fatto un lavoro a Sentino, avevo fatto, no? Ed era il periodo della mattanza, quando si pescava il tonno, allora a Sentino, ormai è da anni che non si pesca più. E avevo conosciuto uno di questi pescatori, a me mi aveva dato le mascelle del tonno, che si chiamano tarci, sono tarci. E io me le sono portate attaccate, allora ero lambretta, me le ho portate legate alla lambretta, tutta la lambretta insanguinata quando tu arrivi da Sassari, e poi mia madre le aveva cucinate, ma non è che non tiravamo i figosi. È una cosa che io qua al mercato non ho mai visto, mai, mai, mai, e non le vedrò mai. Ma dai, Giomaria, riprendi. Ah, è ok. Avanti, signor Bacchi, buonasera. Oh, buonasera, Gio Marì, ben ascoltato, ben entrato su questa frequenza di grandi signori. E c'è il dottor Coso, Tore, che ha pescato la mulena e l'ha venduta a Graziano, te ne vale? È vero. Ah, te l'ha detto a mangiare la sera da Graziano. La sera, buona era. E allora gli animali da dove già? Oh, ma chi mi ti ho mandato la foto? E anche a te Giulio l'ho mandata su WhatsApp. Era lunga Gian Maria, 1,15 m, è grossa 10 centimetri. Atta, chi sta cattando la bella carriera, chi sta è? Tutta carne, chi sta è la buona è? Per tutto. Buonasera Gian Maria. E io ero credo che era tutto Garri. Ma non lo so che si stanno in vado Reppina a Gio Saragoda. No, cate, ma Graziano già ne sa fa però, già ne sa fa, e Pina te la fa tutta la butta della coda, così che lui Pina non acciappa, vero Graziano? No, l'ho tutta fatta a tranci, ne ho cucinato un pezzo, è stato per lui e mia moglie. E l'altra l'ho messa nel pozzetto, nei sacchetti. Buona rete, la tutto botto, a mo' subito, bari. Così è bello, questo sughetto, gatta. Cate la ugrilla, ma chi? E tu a Raffanente, gatta. Sì, ma ti ho mandato la foto, dopo mi mangio la foto. E con una rocciata nel culo. Guarda quanto è grande, aspetta, sì. Sto giù, grazie al telefono, non ne ho appresso. Un boa, Giulio, riprendi. Vabbè, grazie, sei passato, oggi sei fermato, il ciomazzà. Sì, mi sa che ma ci domanda da questo signore, che era un vespone, fuori, è vero che questo signore è a fianco al magazzino giù. La giudica mi ha detto, ma Gian Maria non è parato stamane, ma ha detto, oh no, deve essere uscito. No, sarebbe sfumazzani chi viene? Chi c'è, c'è fenne lo vino, c'è fenne, capito? E si è incubato lo vino, il sfumazzano, è tutta la via, ancora i chi viene? E c'è il dito. No, è vera Antonello, vera cosa, buro Emanuele. Una chiacchieratina, la poi a giudice era quasi mezzo via, il papà mi saccio. Cazzo era mezzo cazzaggio, mi sono affacciato l'occhio, il bacone, e a giudice un girende, e andato a faccia in giù, infatti si è uscito dalla bacia della farmacia, ha detto ma non servizio se ne è andato. Infatti, no, a chi mi ha fatto un giro, ci sono riuscito a pensare a via Pascoli. E poi sono passato da questa ciclabile che vede alla Buggiuzzi. Sono controllato in Taranto dai Ghibi. Ha detto, ah, vai tra Gian Maria. E sono passato da Gian Maria. E ero rientrato da via Pascoli. A dire, si vedi, invece non vedi. E dice, ma tu sei, me ne sono andato. Perché ragazzi, mezzo di cazzo, si chiama, a noi a mezzo ma con quattro su per giù ce l'andiamo sempre, capito? Cazzo, dare il nome di mangiare, c'ha sempre ibi. Oh, la vecchia l'acqua, anzi mi ha già accompagnato a Emanuele a pigliarsi l'urbana che non poteva manco camminare. Allora mi ha toccato a pigliare la macchina, accompagnare la Cesaraccia a pigliare l'urbana. Però non mi sono trichiti fino a mezzo di ma con quattro. Ero in giro, ma ho fatto tutto Sant'Orso la nord, Sant'Orso la sud. I libri durati 12, poi sono uscito da via Pascoli, universo a vicino a farmacia a Porco, perché sono un negozio cinese. E poi ha detto, ma esce, va, passo da chi dai, passo di Veggio Maria, mi fermo un po' che da poi mi andiamo. E invece non c'è, allora me ne sono andato. Ebbene, veramente no. No, sta giudizio fatti Girende e Torrentarete. Bene, avanti, signor Tò. Dai, così. E ho pure la giudizio. Dai, dove ero? La giusunato, ma che si è passato dritto. Ma di vazia di mano, passa, passa. Certo, andiamo via, andiamo. Non so chi io, devo vedere. Capita, ha bisogno di grandi mezzi, Graziano. Non si ricordo mai scombata, boh. Avanti giù. Ma le punti lo fai bene, però, Graziano. Graziano, puoi venire le punti no. A chi devi domandare prima lui? Lo passo devi domandare, anche se no è no, che non te la cane entrare. Già lo sai, ya. Beh, sono qui, tu pure la strada di alto, ti sono combattuto, pensavo che la ammazza della papa, che uno sta di me figliura, ha pensato a finire. Oh, intendi, e cosa puoi fare, e pensa puoi fare, no, che l'AMD, non negozio nuovo che fai, no, che... che è Bettina, beh, dov'è, un bel negozio, è per di tutto, è un grande supermercato, non so come l'hai visto un negozio nuovo che ne vado, ma va per già un bel poco, per già un annetto all'incirca, no, che, infatti noi fermo le spese sempre in Chibi, prima la basia sempre in via Pascoli, alla gobba che di via Pascoli, no, invece va da quando perché il tuo negozio è a 100 metri, 150 metri di linea d'aria da casa mia e andiamo in Chibi, andiamo. Già si compra bene, no, io ancora non ci sono entrato, mia figlia già va lì a farsi la spesa. Ma la parete che stavano facendo quel negozio lì, però io ancora non ci sono andato, ma già ci andavo anche, quello che c'era prima ci andavo, mi molto e voi. Riprendi, torre! Grazie! Ma hai fatto di mano su Manzano, ma hai fatto, passa, passa! Ed io invece sono passato dall'altra bassi. E dove? Non me la metto, boh! Vicino alla farmacia eri vicino alla farmacia, da Giusunato. E mi fatti di mano a passare. E dopo invece a Giugirato, perché dovevo risalire. Andava e anda. Che non me la trovo, allora non sta riconosciuto. E cosa vuoi fare, catta? È così. Avanti, signor Bacchi. Bacchi, caduto, sì. No, sono caduto, adesso sono in piedi. Compresa, Graziano, legando la moto, non si può fare vedato, a che ora è diventato alta residenza. A Trento, a Baidesa davanti, così che non si gira per il caffè, no. A Baidesa solo a davanti, Ma chi? Allora va gli occhi, va. La sai per la Luca, suonendo in macchina con Marina. Mi sono guidato così, ciao. E che te la mezz'ora suonendimi. E lei andate sempre ad Alanzi. Graziano, Graziano. Ma se ti manca la batteria, Graziano, come ti fai? Hai pinchi, Andy? No, che me la segna, che me lo segna. Stamani se c'è la colonnina della benzina disegnata. Quando è a me, quasi a metà mi lampeggia, non mi avvisa già a baita di la benzina. Però ci sono le tacchette, me lo segna. Ecco, allora già sei a posto, te lo segna e dunque non c'è pericolo di rimanere a piedatto. Andave, avanti Giulio. Vabbè, da che Graziano è organizzato, mi ha fatto di batterie, cosa gridi? Capita, e lo grido io. Già hai attrezzato, vai. Avanti buoni burro autoradio, se buoni in questa motoretta. Oppure si piazza addirittura lo baracchino, si piazza. Vero, Graziano. Guarda che se voglio lo posso mettere, ce l'ho in garage lo stereo della macchina. E pure un baracchino se voglio un po' buonino. Stamani mi ha visto un signore che mi vicino al baracchino di Sant'Ursula. Si è parlato della macchina. Caspita che bella! Cazzo, questa me la compro, dove l'ha presa? Tutte le informazioni mi ha domandato, quanto costava? mi fa, ma fa provare a sedere, prego, si sieda. Caspita, adesso vado a casa al computer, me la prendo subito. Uno marziano, era, questa è giusta proprio per me. A chi ha tre rotti, no? Però avrei detto che era, che non era in Italia, in Sardegna però. Che era in cosa, in Inghilterra. Sì che gliel'ho detto, per via del Covid, gli ho detto, ho dovuto aspettare un mese e mezzo quasi. Non lo so adesso se fanno prima. Comunque basta aspettare, già gli arriva. Poi chiede informazioni, poi gli danno il tragitto di dove è arrivata, e controllano al computer. E sa quando gli arriva. Infatti, c'è la targhetta dietro, basta fare www, non mi ricordo com'è, e la trova subito al computer, capito? Sì, la trovi subito. Mi stasera lo stavo guardando, ci sono altri modelli, belli, mi. Col cestino anche già applicato, un cugnolo e ad anzi, mezzo baro. Oh, il faro è sopra il parafango. Per andare a fare la spesa, c'è il bauletto, il cestino e sotto la sella. Infatti, ci sono anche quei cestini, sì, e tutta la maniera sono. Ma lì sono organizzati, così che non è come qua. Però anche qua si stanno organizzando su questa roba elettrica, è già pieno, puoi immaginare. Adesso c'è tutti pure le macchine, tutte elettriche, pure in Italia, ragazzi. Ma se tu pensi che io con un euro ho fatto la ricarica, sono sceso a Porto Torre, sono risalito e la tacchetta del consumo era a metà della ricarica. Dunque, cosa giù pensi? 50 centesimi a farà Porto Torre e Turrazza. Ma perché sei parato? Perché Porto Torre sei parato? E allora al mercatino! Aspetta, bubu! Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene! Oh, già è comoda, sì, e poi per quello che costa, guarda, per 1900 euro si può comprare benissimo quella, perché quando consideri che ci sono monopattini che costano 1200-1300 euro, un monopattino, di quelli elettrici che ci sono adesso in circolazione, va bene, ce ne sono anche da 500-600 euro, però. E consideri che quello lì è a tre ruote, ha tutta la sembianza di una macchina, a 1900 euro è più conveniente prendere quella che il monopattino, no? È molto migliore questa, il monopattino, oi, cazzo, acciappa un fossalito e ti drocchi il guzzo, no, saranno. Invece questa qua ha le ruote più grandi, per cui basta stare attenti anche quando davanti, capito, per i fossi. È chiaro che essendo una ruota piccola trova un fosso grande, cazzo, non è tanto facile, capito, puoi fare anche danno e ti puoi fare male anche tu. Invece in questa maniera con il malapattino non è possibile malapattino. Puoi camminare solo dove c'è strada buona, sennò è pericoloso giù. Sì, infatti è pericoloso, sì, il monopattino. Soprattutto per certe persone scellerate. C'è qualcuno che se l'ha truccato, ho visto il video, che va quasi a 100 km d'ora, ma è una cosa incredibile, ragazzi. Sull'autostrada, l'ho visto in continente, il monopattino truccato, e anzi erano in due addirittura, tutti e due che stavano facendo la gara, questi due ragazzi. Cosa incredibile, ragazzi, da voi dove si arriva. Certo, sono fuori legge così, perché non va bene. È ovvio che devono tenerli normali come li comprano. Invece no. E come facevano per le moto, che li truccavano, hanno fatto anche poi il monopattino. Incredibile, ragazzi. Vai, Bacchi. Bacchi, c'è addirittura il sedile, si siede anche. Ma è così veloce, io penso che non 50-60 km all'ora li fa. È velocissimo, però se c'è più un ostacolo fatti un fusso. Si pare e sei cillacchi dell'aria, chissà, ma la vedrata si va, hai pesa, anzi dorme, hai tre ruote, sei tranquillo, va a retromarcia, a muro, e cosa vuoi? Ma che più vi grazia? Quella lì va bene, per città è molto comoda, Magari fuori no, però per città è l'ideale, tutto lì. Avanti, certo. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Un domani, se può comparare, un domani però. Quando una macchina no, si può più trattarla, si può, si tratta chissà. Beh, finché la macchina cammina, bisogna usare la macchina, a voi magari, allora si pensa a quelle cose, capito? Comunque è una cosa molto... Oh, i gatti di sugarità io, no? Ah, ci ho provato da solo, quando la gente piazzata, boh! La buona sera di buce magazzino, il bello zappata, era 2 anni zappata, però quella era 2 ruote, era lo scooter, mentre questo per essere graziato, 3 ruote è più tranquilla, più sicura, là è tutta un'altra cosa, per una persona grande magari è meglio quella che lo scooter, dai. Beh, lo scooter, un po' io, non è che sono buoni tutti a andare in moto, no? Poi alla stessa età io, un uomo umano con uno scooter di rossi, non è che per me cazzare bene, a chi io non mi ne ho visto il palazzo mio va, chissà molto, a pedali, però se tu lo vedi è tutto aggrancato, quando è posato e quando se ne va è peggio, quando torna la sera. Guarda, gli ero fatta a me, è rimasta a bocca a bocca andavi sulla mia. E mi ha detto che mi fosse un pensierino, cazzo, è meglio di la doia. Beh, se si riesce a pulire a farsi da Ferresi, invece va il reportato, si ribolla la pace, se non sanno l'anno più bene se la compareggia. Ed è una cosa più tranquilla. Avanti giù. Spero, grazie. Cosa? Ha già detto che il motorino, se ti fidi, poco poco, si anda anche lungo, lo dai un attimo vola, incustodito, passa qualcuno e si se lo butta a volo. Mentre invece per il motorino toglio, no? Per la moto toglia, no? Non la vuole buttare, non la vuole volare, chissà. No, cammina, no, si ne cava la giave giù, no, cammina, chissà. Lo scherzo. E poi quando mi fanno un buon culo, l'allarme, si giù, quello delle comando, l'allarme, si giù, da vicini non sono, al di là so che l'appoggi la mano e comincia a suonare e si illumina già tutta casa e comincia a fare alleni e aumentendo la sirena. E appunto, così è pure più sicura, quando andi a fare una commissione, che la daghi fuori, in questo dito, se invece andi con un bottolino, passa lo delinquente, piglia e se te la butta. Ma cosa non sappiamo quanti vanno nei bani motorini, mentre poi chi sa no, chi sa di meno male a puttana assistita, quante base, chi sa impinti non si sta buono buttando. Avanti Gianmarì. Non credo che se la buccia, è pesante, è impegnita, a codo non se la buoni buoni a zicco. Sembra così, ma è pesante a prendersi la codo, che se non salvo che non siano in due, gatta, però. Non lo so, la mia se non poi in marcia già camminava sì, però rimaneva pesante, capito? Rimaneva un bel pesante, ma che se non lo so se è pesante o mi ziri quando mi giri la giave, come te, grazie. La moto quella pesa 150 kg, non so così se la giunta la curva. vabbè, mi furano che sì, a motore, caccia. E poi ne bisogna produrre, ma non credo comunque, è sempre meglio essere attento, vai a essere più tranquillo, dai, anche se un poveretto riesci a raccimolarsi su tanto, a comprarsi un mezzo, dato che non riesci a pigliarsi la macchina, e riesci a pigliarsi la volta, deve essere attento pure se mi sta a bocciare. Guarda che oggi vendono anche il bloccadisco, è una specie di lucchetto che si mette nel disco, con l'allarme. Se voglio mi prendo il buruchiccio e le bongo un buruchiccio, ma è cosa per un buon caffè, tanto quando la tocca comincia a suonare, si accende in tutti i luci, al lampeggio. E poi pure si andava a furare là, non la puoi furare perché sotto la stella c'è l'interruttore del blocco motore, giri chi se blocchi il burro motore. Dunque se andai a finire là, non camminano. Infatti, cioè, come ce l'aveva per il blocco motore, non camminava, se non inserire la chiave non camminava, capito? Pesanti camminenti, pesanti, senza buoni in marcia, capito? Vabbè, ma chi riprende? Io riprendo io. Riprendo per salutarlo e passarmi in QRT, perché è giù. Bene, ciao Grazia, salutami la signora. Ciao Tole, gli tengo le patatine, saluta la signora, Gian Maria lo stesso. E poi che c'è rimasto? Giulio, gli tengo le patate. Vi saluto tutti cordialmente, augurandovi ancora buon QSO. Bacchisio, fa in QRT, se in caso è che poi ci siete, riprendo io. Bene, riprendi no, a Giulio che è in bianco. Vai Giulio. Ok, ciao Bacchi. Risentirci, dai, grazie per la chiacchieratina. E anch'io chiudo, dai, che è arrivato mio genero, per cui devo scendere giù. È arrivato già da 5 minuti, da 5 minuti fa, dai. Vado a salutarlo che è giù, in tavernetta. Va bene, vi saluto anch'io. Ciao Graziano, grazie per la chiacchierata, ciao Tore. Grazie anche a te per la chiacchierata e ciao Gio Maria. Salutoni a tutti, grazie a tutti per la chiacchierata, io ascolto il finalino e dopo chiudo. Vai Tore, ok? Ok Giulio, ciao, ci sentiamo alle prossime, ok. Ciao Battisio. Andave, riprende grazie. Ciao Giulio, buon proseguimento di serata. Ciao Battisio, anche a te buon proseguimento di serata. A domani se coincide, ok. Tore, io adesso mi devo spostare che devo andare a fare l'insulina a quella signora che abita qua vicino. Al limite rientro dopo se ci siete, ok. Riprendi tu Giomari. Sì, ok, d'accordo, anch'io chiedo, dai. A domani se coincide. Ciao, grazie, buon proseguimento, saluto in casa, ci sentiamo. A domani. Tore, Bacchisio e Giulio, vi saluto. Riprendi tu e chiudo io, vai, buon proseguimento anche a te. Sì, ok, ciao Gian Maria, andare. Ciao Gian Maria, allora o aspetto se no chiudo anch'io domani tu. Ciao Gian Maria, ciao Tore, ciao a tutta la ruota anche chi è in ascolto. Ok, ciao. Ciao, grazie, ci risentiamo.